Quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno. Il programma prevede di parlare di toponomastica, di restaurazioni domestiche, di angeli e stranamente di sesso degli ascensori.